418. Carciofi ritti. Così chiamansi a Firenze i carciofi cucinati semplicemente nella seguente maniera. Levate loro soltanto le piccole e inutili foglie vicino al gambo, tagliando quest'ultimo. Svettate col coltello la cima e allargate alquanto le foglie interne. Collocateli ritti in un tegame, insieme coi gambi sbucciati e interi. Conditeli con sale, pepe, olio, il tutto a buona misura. Fateli soffriggere tenendoli coperti e quando saranno ben rosolati, versate nel tegame un po' d'acqua e con la medesima finite di cuocerli.